Vedi la foresta, gli hai più che ragione, vedi la foresta, gli hai più che ragione, ai mamma, se sabies come lui un fazi e invece, ai mamma, se sabies come lui c'è sulle campà, vuoi tu cupà, la terre di salve, vuoi tu cupà. Ay mamá, se sabies como lo iba a hacer.